se la polizia spara. Vattene contenta se la polizia spara. È una città morta e la vita è molto cara. La vita è troppo corta, è diventata merce rara. Ti ho coperto marcio ai bordi della strada. Ma tu gli hai dato un calcio con le tue fottute Prada. La Valle si incendia e vedi pigna colata. L'unico problema è dove passi la serata. Siamo intrappolati in questa Emilia paranoica. Come invertebrati dentro un'era protozoica. C'è solo una voce che ci assilla logoroica. Dice che è finito il tempo della perestroica. Stavo per mollare, non ce la facevo più. Il venerdì alla crepa e il giovedì al balù. Un giorno ho detto basta, ho bruciato la TV. E faccio la mia cosa insieme alla mia crew. Attivisti in the house, questo è solo il primo round. Attivisti in the house. Attivisti in the house, Modenesi underground. Attivisti in the house. Gli avvocati, sei fuori dal comune e dagli assessorati. Ma nella casa qua che cosa sta crescendo già? Una cosa piccicosa sta invadendo la città. Sale nelle sale, si moltiplica nei bar. Non si può restare a viaggiare come supercar. Nome fattivisti, Bruno parte con la base. Si butterà su pezzi e dopo brama kamikaze. Noi siamo senti istante, crediamo questa frase. Tavolo parlante, alle vostre case. Attivisti in the house, questo è solo il primo round. Attivisti in the house. Attivisti in the house, Modenesi underground. Attivisti in the house.